Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Beh, c'è un leggero sottofondo di tiramento di culo anche quando giro. Insomma, non usa mezzi termini, diciamo così, no? Si dice così? Valentino Rossi, l'avete sentito su Sky Sport, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché oggi sono state le prove libere in vista del MotoGP. È chiaro che, insomma, per il momento sia un pochino amareggiato, come dice lui, scocciato, però è sembrato competitivo, è grintoso. Poi ne parleremo. Parleremo anche, senz'altro, di politica, perché come sempre il venerdì qui effetto notte facciamo un bilancio con il vice direttore del Sole 24 Ore della politica della settimana, il meglio, dico io, o il peggio a seconda dei punti di vista. E sicuramente parleremo della dichiarazione di Renzi, che in realtà ha fatto dentro il libro di Vespa, che sapete ogni poco esce un'anticipazione quando deve uscire il libro di Vespa, ogni giorno esce, diciamo così, viene centellinata un'intervista, e Renzi dice: il ponte sullo stretto si farà. Qualcuno già lo ha definito Berlusclone, perché sapete che questa è una vecchia battaglia di Berlusconi. Dice però: prima le emergenze, però il ponte sullo stretto si farà. Ecco, questo volevo chiedervi stasera: cosa ne pensate di questa dichiarazione di Renzi? Fra l'altro, lo ha detto perché intende veramente farlo, o, come potrebbe pensare qualcuno, per lusingare, accontentare il suo alleato di governo che è Alfano? Che ne pensate? Come sempre, per voi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni, oppure potete inviare le vostre opinioni via SMS al 349 238 6666. Il numero è 349 238 6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. E poi bisogna dire che questa è stata una giornata di evasioni, di magnifiche evasioni, no, di evasioni criminali, perché incredibilmente un detenuto, un ergastolano, è scappato dall'ospedale di Lecce riuscendo a sfilare dalla fondina di un agente lì di scorta la pistola, ha cominciato a sparare all'impazzata, poi è scappato ed è caccia all'uomo, ancora non se ne sa nulla. E un altro poco fa, invece, la notizia di poco fa: un altro detenuto evaso da una clinica psichiatrica nel Cuneese è considerato socialmente pericoloso, anche di lui per il momento non si sa nulla. È una giornata un po' particolare oggi, poi cercheremo di capire anche come sono possibili queste cose, come accadono, ne parleremo con gli ospiti. Intanto, mentre voi fate le vostre riflessioni, che inviate dalla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666, vi sintetizzo la giornata. L'aereo precipitato sul Sinai, anche la Russia sospende i voli per l'Egitto, caos per il rientro di migliaia di turisti, mentre Londra insiste: è stata una bomba nella stiva. Lecce, un ergastolano evade dall'ospedale rubando la pistola a uno degli agenti di scorta, è in corso la caccia all'uomo, e nel Cuneese un detenuto socialmente pericoloso evade dalla clinica psichiatrica. Politica: Renzi dice il ponte sullo stretto si farà, ma prima le emergenze. A Messina ancora senza acqua, il Consiglio dei Ministri vara il decreto salva regioni e rimuove la prefetta di Palermo su sua richiesta. Scioperi: domani si ferma la grande distribuzione, spese e shopping a rischio in store e supermercati. Sport: prove MotoGP, primo Lorenzo, quarto Valentino, che dice mi rode, come avete sentito. E per il derby della capitale, la questura avverte, è ad alto rischio per infiltrazioni di ultra stranieri. Quindi dagli aggiornamenti sull'aereo russo caduto sul Monte Sinai. Anche la Russia ha annunciato la sospensione di tutti i voli sull'Egitto, anche se, chiarisce Mosca, non c'è una conferma che a provocare l'incidente sia stata una bomba. In parte lo ammette, in parte però dice non c'è la certezza, invece insiste in questo senso l'Inghilterra. Che sia stata una bomba a far precipitare l'Airbus Metrojet sul Sinai non è confermato dall'inchiesta in corso, eppure anche la Russia blocca i voli sull'Egitto. Questo non significa, precisa il portavoce del Cremlino, che Mosca avvalli l'ipotesi dell'atto terroristico sostenuta da USA e Gran Bretagna. Secondo gli investigatori britannici, scrive la BBC Online, a provocare il disastro sarebbe stata una bomba posta nella stiva del velivolo, che sarebbe stata posizionata, stando agli interrogatori e ad altre indagini, con la complicità di uno o più addetti allo stivaggio dei bagagli nello scalo di Sharm. Frena sull'ipotesi attentato il Cairo, che definisce false ed infondate le notizie pubblicate da alcuni media, tra cui quelli francesi, secondo cui una delle scatole nere ritrovate avrebbe rivelato la presenza di una bomba. E mentre anche la Turkish Airlines si aggiunge alla lista di compagnie che sospendono i voli sul Mar Rosso, è in atto il piano per riportare a casa i turisti rimasti bloccati in Egitto. 50.000 quelli russi, secondo gli operatori turistici di Mosca, per rimpatriare i quali, fa sapere la portavoce, occorrerà almeno un mese. 25.000 britannici, i primi dei quali sono arrivati a Londra in giornata con aerei speciali. Ancora non è sicuro quando potranno rientrare i 157 italiani bloccati a Sharm per la sospensione dei voli EasyJet, mentre l'Italia fa sapere di aver rafforzato le misure di sicurezza all'aeroporto del Cairo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è notizia di poco fa che sono tra 45.000 e 70.000 i turisti russi in Egitto, sono tutti praticamente lì. Evidentemente non solo è la Russia è il primo paese come turismo a Sharm el Sheikh, ma è anche un periodo di vacanze per loro. Questa è la stima del vice premier Drokovic, citato da Interfax. Adesso la cronaca italiana invece, con questo caso incredibile di questo ergastolano fuggito dall'ospedale di Lecce, riuscendo a sfilare dalla fondina di un agente di scorta la pistola, sparando poi all'impazzata, rubando quindi l'auto a una donna, riuscendo a sparire nel nulla. Parleremo con gli ospiti più tardi di come sia possibile un evento del genere. Adesso c'è anche una dichiarazione del sottosegretario alla giustizia Ferri, che dice: la fuga di un uomo condannato all'ergastolo per un omicidio dall'ospedale di Lecce rappresenta un fatto gravissimo, ancora più sconcertante il fatto che la sua fuga, nella sua fuga abbia ferito tre persone. Mi auguro che l'uomo autore di questo terribile gesto sia consegnato il prima possibile alla giustizia. E poi... vi dicevo, come se non bastasse, un detenuto di 32 anni, originario di Vercelli, è fuggito dalla clinica psichiatrica San Michele di Bra, nel Cuneese, dove era arrivato solamente poche ore prima. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, si sarebbe allontanato in direzione della stazione ferroviaria e le forze dell'ordine lo stanno cercando. Ancora cronaca, aggredite in casa dopo aver scoperto i ladri e colpite alla testa con un bastone, sono gravissime due donne di 84 e 53 anni che questa mattina a Renazzo di Cento, nel Ferrarese, sono state ridotte in fin di vita da un gruppo di banditi dopo quello che ogni probabilità era un furto in casa degenerato in rapina violenta. Non finisce l'emergenza acqua a Messina, mentre il presidente del Consiglio Renzi, come vi dicevo nell'immancabile anticipazione del libro di Bruno Vespa, annuncia il ponte sullo stretto si farà. La nave Ticino della Marina Militare, nuove autobotti e un nuovo bypass in aggiunta a quello che si è nuovamente rotto tra l'acquedotto dell'Alcantara e quello di Fiume Freddo. L'emergenza a Messina, insomma, è ben lontana da una soluzione. Una Messina dove, con la dichiarazione dello stato di emergenza, arriva non solo l'esercito, ha precisato il sottosegretario De Vincenti. Poteri straordinari, poteri forti alla protezione civile nazionale per prendere in mano una situazione che è diventata estremamente difficile, una situazione ormai intollerabile. Rassicurazioni anche dallo stesso Presidente del Consiglio, che a Bruno Vespa, nel suo prossimo libro in uscita, conferma che dopo aver sistemato l'acqua di Messina, i depuratori e le bonifiche, si impiegheranno 2 miliardi in Sicilia per strade e ferrovie e per il ponte sullo stretto, che si farà, annuncia Renzi, dopo le emergenze. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo stanno già arrivando i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, poi li leggerò man mano. Restiamo sulla politica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto cosiddetto Salva Regioni. Palazzo Chigi chiude con un decreto una vicenda che, se non risolta, avrebbe potuto portare a un buco complessivo da 20 miliardi nei bilanci delle regioni. Il provvedimento, messo a punto dal Ministero dell'Economia, non dà fondi aggiuntivi ai governatori, ma consente loro di spalmare in 30 anni l'ammortamento dei debiti contratti. Il decreto, nato per il Piemonte e poi adattato ad altre realtà, sana in particolare il problema della valutazione in bilancio delle anticipazioni dello Stato per pagare i debiti della pubblica amministrazione dopo l'intervento della Consulta. Ringraziamo il governo, commenta il presidente delle regioni Chiamparino, perché consente di ridare certezza ai bilanci di tutte le regioni e di conseguenza al bilancio dello Stato. Altro capitolo, quello della legge di stabilità. In arrivo le proposte di modifica del Partito Democratico. Tra queste il prestito pensionistico e l'anticipo della no tax area per i pensionati al 2016. Pagamento del canone RAI in bolletta in due rate il prossimo anno. Esenzione delle tasse sugli immobili dati in uso ai figli e maggiore flessibilità del turnover per i piccoli comuni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su proposta del ministro dell'Interno Alfano, la prefetta Francesca Rita Maria Cannizzo, prefetta di Palermo, cessa dalle funzioni per essere destinata ad altro incarico. La decisione è il Consiglio dei Ministri, poi dopo c'è arrivata una nota del Viminale che precisa: su sua espressa richiesta è stata spostata ad altro incarico. E sulle proposte dell'INPS, sulle pensioni che prevedono un taglio degli assegni più ricchi per pagare misure a sostegno di aiuta cinquantenni senza un lavoro, il governo precisa che ci sono costi sociali troppo alti. E parliamo dell'amianto alla Scala. Quattro ex sindaci di Milano sono indagati con altre persone per omicidio colposo e lesioni colpose per sette casi di morte e altri di malattia dovuta all'amianto al Teatro della Scala. Morti per esposizione all'amianto all'interno del teatro alla Scala a partire dagli anni 70 e 80. Un siparista, un macchinista, un vigile del fuoco, un falegname, un addetto al trasporto delle scene e anche una cantante lirica. Altri lavoratori sono attualmente malati di mesotelioma pleurico. È l'inizio di una storia che ora finisce in tribunale. Indagati quattro ex sindaci milanesi, la procura ha notificato inviti a comparire a Tognoli, Pillitteri, Borghini e Formentini. Secondo l'accusa, gli indagati, tra cui figurano anche Carlo Fontana, sovrintendente del Teatro Scaligero dal 90 al 2005, e Silvano Cova, direttore degli allestimenti tra il 91 e il 92, non avrebbero rimosso l'amianto dal lampadario del salone principale e dagli altri locali del Piermarini. Sarebbe stato inoltre disatteso l'obbligo di censimento di tutte le parti di amianto previsto dalla normativa del 92. L'amianto presente nel teatro è stato definitivamente rimosso con i lavori di ristrutturazione eseguiti da Mario Botta tra il 2002 e il 2004. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso invece andiamo su un altro argomento. Dopo il nuovo Vatilix, da dove sono emerse vicende di attività lucrose, sprechi lussuosi, privilegi e molto altro, il Papa all'omelia della messa a Santa Marta ha detto: un credente non può parlare di povertà e vivere da faraone. Nella Chiesa ci sono questi che invece di servire, di pensare agli altri, di gettare le basi, si servono della Chiesa. Gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi. E quanti sacerdoti, vescovi abbiamo visto così? È questo l'amaro sfogo del Papa durante la messa a Santa Marta, parole particolarmente significative nei giorni del nuovo Vatilix. Quando la Chiesa, spiega Francesco e tiepida, chiusa in se stessa, anche affarista, tante volte non è al servizio, bensì si fa servire. D'altronde, aggiunge il Papa in un'intervista ad un giornale di strada olandese resa nota oggi, se un credente parla della povertà o dei senza tetto e conduce una vita da faraone, questo non si può fare. Il pontefice pensa anche ai tanti beni della Chiesa, che spiega sono molti ma li usiamo per mantenere le strutture, le tante opere che si fanno nei paesi bisognosi. Questione tuttavia all'ordine del giorno e che assicura ai più stretti collaboratori presto sarà affrontata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, MotoGP col Gran Premio di Valencia che si correrà domenica. Nelle prove libere oggi Lorenzo chiude in testa, quarto posto per Valentino che attacca ancora, dice mi rode sempre, lo avete sentito all'inizio. Per il calcio invece il derby Roma-Lazio sulla base delle informazioni acquisite è ritenuto ad alto rischio secondo la questura di Roma. Da un monitoraggio in ambito internazionale si è appreso che potrebbero arrivare ultra infiltrati da paesi stranieri. Bene, prima di aggiornare chi sta viaggiando, volevo leggere qualcuno dei vostri messaggi sia sulla pagina Facebook del programma sia gli sms al 349-238-6666. Per esempio questo messaggio, vi dico sempre nei messaggi mettete un nome che sia d'arte, alias, qualcosa. È pura follia quella del ponte, opere senza fine tipo la Salerno-Reggio Calabria dall'impatto ambientale, scrive un ascoltatore o ascoltatrice. Michele da Martignano: Renzi ha ragione, prima l'emergenza in Sicilia, poi il ponte, quindi tra 250 anni, beh più o meno se effettivamente questa è la cronologia. Gianni: basta con questo ponte, basta spot. E poi ancora sulla pagina Facebook Maurizia dice: lo dice per coprire di vergogna di non essere capace di riparare un tubo, vedi Messina. Gabriella, la seconda che hai detto, spero, cioè la domanda era secondo voi lo ha detto perché è davvero intenzionato Renzi a fare prima o poi questo ponte sullo stato di Messina oppure per accontentare l'alleato di governo che è Alfano. A tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci quindi insieme. Adesso guardavo ancora, stanno arrivando diversi messaggi su questa cosa del ponte sullo stato di Messina, che effettivamente oggi è arrivato un po' come una notizia, chi si aspettava, da tutti forse, non da Renzi. E dice: Vela, fare il ponte per accontentare Alfano è un po' troppo, credo sia più probabile una mania di passare alla storia di berlusconiana memoria, dice. Adesso ne parleremo tra pochissimo e intanto tra poco raggiungiamo il nostro vice direttore appena si libera il suo telefono, al momento ancora occupato. E adesso vi ricordo invece quali sono le notizie principali della giornata. La Russia sospende tutti i voli per l'Egitto, è un caos per il rientro di tutti i turisti, pensate che solo quelli russi sarebbero 70.000, intanto dovrebbero essere in arrivo invece quelli italiani a Malpensa. Il Consiglio dei Ministri vara il decreto salva regioni e Chiamparino, presidente della regione Piemonte, nonché dimissionario presidente della conferenza delle regioni, ringrazia e dice è stata data la certezza ai bilanci. E poi boom di posti di lavoro negli Stati Uniti, la disoccupazione a ottobre al 5%, quindi molto meglio delle attese, e poi si rompe anche il bypass a Messina, sapete che è arrivato il genio civile, l'esercito, i pompieri, tutti tranne l'acqua per il momento, è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza e Renzi ha detto il ponte di Messina si farà ma prima acqua, strade e ferrovie. Poi il Papa contro gli affaristi, triste che i vescovi siano attaccati ai soldi dopo gli scandali che avete sentito ulteriori di questi giorni, e l'ergastolano che ruba una pistola e fugge dall'ospedale di Lecce, spara contro le persone che trova, 3 feriti. E poi avete sentito anche l'altro caso di questo detenuto che è scappato da un ospedale psichiatrico del Cuneese, e poi Valentino Rossi torna in pista con rabbia. Adesso occupiamoci del bilancio del meglio o del peggio della politica della settimana, lo aggiungo sempre perché dipende dai punti di vista, le notizie sono moltissime anche questi giorni. Certo, una è arrivata oggi che diciamo ha un po' rubato la scena a tutte le altre, che è quella che il ponte sullo Stretto di Messina si farà, ma chi l'ha detto? L'ha detto Renzi, è vero che diciamo è scritto dentro il libro di Bruno Vespa in uscita nei prossimi giorni, voi sapete che ogni volta che esce un libro di Bruno Vespa c'è questo stillicidio quotidiano di anticipazioni, è vero che poi Renzi ha detto prima però le emergenze, le infrastrutture eccetera, e poi il ponte sullo Stretto di Messina, dice sarà un'opera bellissima. L'abbiamo raggiunto Fabrizio Forché. Fabrizio? Ciao, eccoci. Vice direttore del Sole 24 Ore, mica stavi parlando con Renzi del ponte sullo Stretto, anche tu stavi progettando qualche ponte? No. Forse no, tu il no, ponte no. Delle vacanze, forse. Mi occupavo della chiusura del giornale, dove ci occupiamo però anche di questa storia del ponte, perché è veramente un evergreen che interessa sempre. Senti, ma ce lo si aspettava che anche da Renzi arrivasse, perché è vero che Alfano l'ha ritirato fuori un po' di settimane fa, poi Delrio, ministro dei trasporti, aveva detto sì è vero, stiamo valutando il progetto, però in realtà aveva fatto capire che era una cosa che sinceramente non era, diciamo, nelle priorità del governo. Perché Renzi è tornato secondo te a dire questa cosa? Perché è veramente intenzionato a farlo o perché deve ogni tanto, diciamo così, lisciare il suo alleato di governo che è Alfano, che ci tiene? Ma probabilmente è più vera la seconda che dici, è anche vero che lui nel rispondere comunque alle sollecitazioni di Vespa inserisce questa frase tra mille cautele e sembrerebbe più voler dire che non è una priorità del governo, ma vanno fatte prima tante altre cose. Però si guarda bene dal dire non lo faremo, in qualche modo non lo esclude, questo è un po' il senso della sua frase, che evidentemente un po' per non deludere un alleato di governo e un po' perché verso un elettorato magari del sud, della Sicilia, può essere comunque un tema favorevole. E un po', fammi dire, anche c'è un aspetto un po' più tecnico, questo lo raccontiamo sul Sole di domani. Al ponte sullo Stretto sono legate una serie di contratti dai quali uscire per lo Stato non è proprio a costo zero. Quello con l'impregilo, per esempio, no? Per esempio, e quindi dire, mettere la parola fine, definitiva, su quel progetto può avere nell'immediato dei costi per lo Stato. Tenerlo aperto, come dire, rinviare una governi successivi. Fabrizio, magari, perdonami, il ponte tra noi funziona poco in questo momento perché ti sentiamo piuttosto male. Allora tu metti giù intanto che proviamo a richiamarti magari o sul cellulare o un fisso. Fabrizio, tra pochissimo, e intanto faccio sentire qualche file, qualche audio di dichiarazioni di questa settimana. Per esempio, avete sentito che ci sono stati vari fuoriusciti anche del PD in questi giorni, prima di tutto Corradino Mineo, che dopo l'addio al partito ha usato delle parole molto dure nei confronti di Renzi, ha detto, accusato di essere senza scrupoli e subalterno a una donna bella e decisa. questa donna bella e decisa, è chiaro che si intende che fosse la Boschi. Poi però evidentemente, probabilmente anche consigliato da colleghi di partito, è ritornato su questa cosa e ha chiesto scusa. Sentiamolo. Oggi corre un solo obbligo: dire che sulle frasi di ieri ho sbagliato, mi scuso con le famiglie, mi scuso con Maria Elena Boschi, mi scuso con il segretario Renzi. Fra gli altri fuoriusciti ci sono altri tre, successo ieri con Alfredo Dattorre, Galli e Folino. E sentiamo come Alfredo Dattorre spiega questo addio al Partito Democratico. Non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto, ma era diventato troppo forte il divario tra convinzioni di fondo, impegni presi con i cittadini quando siamo stati eletti nel 2013, e quello che il PD sta facendo su tanti temi decisivi, dall'economia alla scuola alla Costituzione. Nell'impossibilità di qualsiasi verifica democratica interna, non mi è sembrato serio né sostenibile rimanere nel partito dissentendo su tutti gli argomenti principali, quindi mi è sembrata la scelta più limpida quella di prendere atto di questa situazione e avviare un nuovo percorso. Quindi amarezza per la vicenda che si conclude nel PD, ma anche adesso grande determinazione per una storia nuova che comincia a partire da sabato con la costituzione dei nuovi gruppi parlamentari della sinistra e con un percorso politico che poi deve vivere nei territori per scongiurare un rischio che non ci possiamo consentire, quello che l'Italia diventi l'unico grande paese europeo in cui la sinistra viene cancellata completamente. Dunque abbiamo ristabilito il ponte, non quello sullo Stato di Messina, con Fabrizio Forché. Ciao Fabrizio, eccoci di nuovo. Facevo sentire i fuoriusciti del PD, c'è una piccola emorragia, non come in altri partiti, però questo era Dattorre, poi Mineo che aveva attaccato Renzi, diciamo, con frasi che erano apparse sessiste, poi si è scusato. Che ne pensi di Bersani? Ha preso le distanze oggi dai fuoriusciti, dice sbagliato lasciare il partito. Sì, della frase di Mineo innanzitutto penso tutto il peggio possibile, questo fammelo dire, perché veramente insomma non si può in politica scendere a questi livelli così bassi. Le fuoriuscite non hanno mai portato bene in politica, sia a destra sia a sinistra si è dimostrato che molto spesso ci si candida all'irrilevanza più totale quando si esce da un grande partito, quando si fanno delle scissioni, delle microscissioni, e io credo che questa scissione, queste uscite non avranno molto successo, non avranno successo maggiore di quanto è avvenuto nel passato. La frase di intervista di Bersani di oggi, e poi come dire, accredita ancora di più questa tesi, perché dimostra come anche nella grande sofferenza, cioè all'interno del PD, comunque la grande maggioranza dell'opposizione interna a Renzi è ben convinta a voler comunque rimanere all'interno del PD e fare magari una battaglia all'interno del PD contro una linea del segretario che secondo una parte sicuramente ampia, questo va detto, molto ampia del partito, va in una direzione contraria a quella che è un partito del centro-sinistra di stampo univista, insomma, per intenderci. E a fronte di qualcuno che lascia il PD, invece rinasce la fiamma tra due vecchi alleati, che sono Berlusconi e Salvini, la Lega, diciamo, no? Perché Berlusconi ieri ha rotto gli indugi e ha fatto sapere che domenica sarà a Bologna in piazza con Salvini sul palco per questa manifestazione contro il governo Renzi. Allora subito l'hanno criticato per esempio i Fittiani, che hanno detto questa è subalternità a Salvini. Alfano, che ha detto è un chiaro passaggio di testimone questo, da un leader del centrodestra moderato a un leader lepeniano di estrema destra, quindi Salvini, no? Che sa che ha simpatie per la Le Pen. Beh sì, insomma, tornano insieme in un'iniziativa politica forte, tornano insieme da posizioni appunto invertite, perché evidentemente qui è Forza Italia e Berlusconi ad essere in posizione effettivamente subalterna rispetto alla Lega e subalterna nei fatti, perché comunque aderisce a un'iniziativa della Lega sulla quale Berlusconi stesso aveva manifestato molti dubbi nei giorni scorsi. Evidentemente comunque prende atto comunque di questo ruolo in qualche modo in questa fase subalterna e preferisce superare l'unità di un centrodestra. Francamente non si capisce su che linea politica, perché poi Berlusconi come dire, è all'offensiva per cercare di recuperare una posizione di Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo. La Lega va in direzione completamente opposta, così come Fratelli d'Italia, E quindi trovare un minimo comune denominatore all'interno di queste forze è oggettivamente difficile. A proposito di minimo comune denominatore, adesso ti porto un altro ragionamento, Fabrizio Forché, perché sai che è iniziato ieri il processo per Mafia Capitale e senz'altro, insomma, è molto legato alla politica questa vicenda, no? Sia per il perverso intreccio affaristico criminale e anche per le conseguenze, quindi la vicenda Marino, le sue dimissioni, Tronca che è diventato commissario, e poi adesso si cerca, i partiti cercano delle figure da candidare che siano credibili. Sentiamo allora che cosa ha detto la ministra Lorenzin da Vespa giorni fa. Secondo me è meglio un candidato che abbia una visione politica, ma in questo momento sia al di sopra dei partiti politici. Alfio Marchini risponde a queste caratteristiche. Se non si spiaggerà sul centrodestra come il candidato marchiato, sì. Quello che mi domando è se questo vuol dire che Marchini dovrebbero poterlo votare sia elettori di centrodestra che di centrosinistra. Secondo me sì, ma certo, se no vince che, il Movimento 5 Stelle. Quindi vuol dire che PD e Forza Italia dovrebbero entrambi accettare questa candidatura civica. Ma io infatti sto facendo qua un esercizio di stile, secondo me potrebbe essere una strada percorribile. È una via percorribile questa, secondo te, Fabrizio? Ma è una via sicuramente molto confusa, è una via molto confusa, ma che in qualche modo però nasce non casualmente, diciamo, anche se anche nelle parole della Lorenzin mi sembra aver detto con una grande convinzione, però nasce da un problema che oggettivamente c'è, cioè c'è oggi un bipolarismo nell'elettorato che sembra contrapporre ancor più che destra e sinistra partiti cosiddetti populisti e partiti che possiamo chiamare più istituzionali, più di governo, e quindi una Forza Italia, diciamo, che riscopre origini più appunto da partito di governo e non ha una deriva populista, può trovare una convergenza con un partito di governo come il PD rispetto a forze populiste come Grillo, come la Lega, come Fratelli d'Italia. Insomma, un bipolarismo del tutto inedito che sembra assurdo e paradossale, ma che in realtà nell'elettorato sta trovando un po' una strada in questa direzione, non solo in Italia ma anche in Europa, dove c'è sempre più spesso una contrapposizione con il partito populista da una parte e il partito di governo dall'altra. In Italia, dove non ci facciamo mancare niente, abbiamo più partiti populisti e abbiamo più partiti istituzionali che addirittura appunto ora pensano in alcuni casi di poter convergere. Anche se ho visto poco fa la dichiarazione di Guerini, vice segretario del PD, che ha detto le ammucchiate non ci interessano, abbiamo bisogno di una candidatura forte, insomma, quindi poi vedremo se ci sarà convergenza o no. Il PD evidentemente pensa di riassumere il ragionamento della Lorenzin all'interno del suo stesso partito, cioè il partito della nazione di Renzi, cos'è se non un grande partito istituzionale che unisce forze che vanno dalla sinistra fino anche al centrodestra. Però bisogna dire che in tutto questo a Roma nei sondaggi sembrerebbe vincere per il momento il Movimento 5 Stelle. Sentiamo Grillo cosa ha detto. Nell'immediato futuro, se governeremo questa città, saranno effetti collaterali molto pesanti, azzereremo tutte le amministrazioni, quindi avremo, i romani devono saperlo, che avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere il perché, gente che perderà il lavoro, non abbiamo il reddito di cittadinanza, perché se avessimo il reddito di cittadinanza andremo alla grandissima, ma devono i romani capire che miracoli qui questa città non li fa nessuno. Questo ha detto Grillo, poi si vedrà, sicuramente sarà un bel impegno, l'abbiamo detto tante volte, no? Per chi avrà l'amministrazione di Roma. Conteranno tantissimi candidati, sono tutte forze che possono vincere e possono perdere rovinosamente, anche lo stesso Grillo rischia, il Movimento 5 Stelle rischia a Roma, perché nel momento in cui scommette sulla possibilità di andare a governare a Roma, se poi va male il suo candidato è una sconfitta che poi può pesare anche in futuro. E nello stesso modo PD, centrodestra, devono trovare dei candidati molto forti. Per ora però abbiamo dei partiti senza candidato e abbiamo un candidato in campo che è Marchini, che tutti vorrebbero forse in qualche modo appoggiare, ma lui per il momento non si fa appoggiare da nessuno in maniera solitaria e specifica. Ci sarà tempo, insomma, per vedere che strada prende questa storia di Roma. Grazie intanto Fabrizio Forché, buona chiusura di giornale. Ciao Fabrizio. Buonasera, ciao. Prima di lasciarci, adesso c'è una breve pausa di ricreazione e poi parleremo di questo detenuto scappato dall'ospedale di Lecce e di come questa cosa sia potuta avvenire. Andrea scrive: ha dei secondi fini Renzi, come sempre doveva fare la lotta alla corruzione, l'evasione fiscale, ma nulla di tutto ciò. Poi Serena scrive: il ponte di impatto ambientale tremendo, costruito con materiali scadenti, un film già visto troppe volte. Continuate con le vostre riflessioni su questa dichiarazione di Renzi che il ponte sul Stretto di Messina si farà, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia con i messaggi al 349-238-6666. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E eccomi con voi, mentre voi continuate con i vostri messaggi sulla dichiarazione di Renzi a proposito del ponte sullo Stretto di Messina, che ha detto si farà. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte anche con i messaggi al 349-238-6666. Per esempio, questo messaggio dice: se promette il ponte per portare acqua a Messina o si è fatta sparire l'acqua per ottenere i fondi e le promesse del ponte, mafia, ricatta governo, niente di nuovo in Italia. Un po' complottista questo messaggio. Insomma, Rob scrive: col ponte succederà come con l'Expo, voluto dalla Moratti e Formigoni con la sinistra che era contraria, per poi impadronirsene nel momento del successo. Vi ricordo, prima di iniziare il prossimo argomento, le notizie principali della giornata. L'aereo precipitato sul Sinai e anche la Russia adesso sospende i voli per l'Egitto. Caos per il rientro di migliaia di turisti, mentre Londra insiste, è stata una bomba nella stiva. Lecce, un ergastolano evade dall'ospedale rubando la pistola a uno degli agenti di scorta. Avete sentito poco fa il sottosegretario Ferri che ha detto un atto gravissimo. Politica, Renzi dice il ponte sullo Stretto si farà, ma prima le emergenze. Messina però è ancora senza acqua e il Consiglio dei Ministri vara il decreto salva regioni. Scioperi, domani si ferma la grande distribuzione, spesa e shopping a rischio in store e supermercati. Sport, prove del MotoGP. Primo Lorenzo, quarto Valentino, che dice però questa cosa mi rode. Per il derby della capitale la questura avverte è alto rischio per infiltrazioni di ultra stranieri. Affrontiamo quindi questo fatto di cronaca che è piuttosto paradossale, insomma, per non dire che ha dell'incredibile. Che cosa è successo? Che questa mattina all'ospedale Vito Fazzi di Lecce un uomo, un ergastolano di 42 anni, Fabio Perrone, condannato per omicidio e poi facente parte anche della Sacra Corona Unita, che in breve è la mafia pugliese, scortato da due agenti di polizia penitenziaria, è salito al terzo piano di questo ospedale per sottoporsi a un esame, quando poi le guardie gli hanno sfilato le manette, lui ha sfilato a una delle guardie la pistola, ha cominciato a sparare ferendo in maniera lieve un poliziotto e un visitatore, poi ha raggiunto l'area di parcheggio, ha minacciato una donna, le ha rubato l'auto, si è allontanato sfondando le barriere che si trovavano all'ingresso della struttura ospedaliera e durante la fuga ha investito anche una guardia giurata, che per fortuna non è grave. Poi è iniziata la caccia all'uomo. E vorrei chiedere a Fabrizia Aralla, giornalista pugliese. Ciao Fabrizia. Buonasera. E c'è qualche novità su questa caccia all'uomo? Beh, di Fabio Perrone, l'ergastolano che è evaso questa mattina dall'ospedale di Lecce, non c'è ancora traccia. Gli ultimi aggiornamenti riguardano soprattutto la ricostruzione della dinamica dell'evasione di questa mattina, che ha seminato il panico nel reparto di chirurgia endoscopica del Vito Fazzi di Lecce. Tantissimi posti di blocco che sono stati allestiti in tutta la provincia di Lecce, che in queste ore sono stati estesi da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria anche alla provincia di Brindisi. Le novità riguardano il luogo in cui si cerca Fabio Perrone. Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nella zona del nord leccese, dove Fabio Perrone, essendo un esponente di spicco della criminalità locale e legato agli ambienti della Sacra Corona Unita, sarebbe considerato di casa. Fabrizia, senti, a proposito della dinamica, si è capito quanti erano gli agenti che lo scortavano questa mattina in ospedale? Sì, inizialmente si è parlato di soli due agenti di polizia penitenziaria, in realtà poi si è saputo che gli agenti erano quattro, uno dei quali faceva l'autista del mezzo che poi ha trasportato l'ergastolano dal carcere all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. A questo proposito c'è anche una nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha fatto sapere di aver avviato comunque un'indagine conoscitiva per chiarire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità, e ha fatto sapere il Dipartimento che il numero degli agenti che scortavano l'ergastolano era adeguato a questo tipo di necessità. Chiarissimo. Di situazione. Chiarissimo, grazie Fabrizia Ralla, grazie. Allora si è chiarito quanti erano gli agenti. Ciao. Chiedo a Donato Capece, che saluto, segretario generale del SAPPE, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Buonasera Capece. Buonasera a tutti i radioascoltatori e a lei. Ecco, la domanda è, c'erano quattro agenti, come è stato possibile che quest'uomo è riuscito a scappare? E tra l'altro si è evitata anche una strage, perché il rischio era anche quello, oltre al fatto della sua fuga. Per un dovere di informazione dobbiamo dire che questa mattina la dinamica dell'incidente è così descritta. Questa mattina verso le ore 11 la scorta è uscita, una scorta con due detenuti, l'ergastolano e un albanese. Gli agenti erano quattro, quindi accompagnati all'ospedale, due agenti hanno accompagnato l'albanese alla visita specialistica e altri due agenti hanno accompagnato al sesto piano dell'ospedale questo soggetto che, dopo avergli sfilato le manette perché doveva essere sottoposto a visita specialistica, ha immediatamente, aggredendo l'agente, preso la pistola e ha cominciato a fare a sparare. Ma è possibile che due agenti non siano in grado di mettere in sicurezza, di tenere sotto controllo una persona di questo tipo? Teniamo presente che con questi soggetti è opportuno che la scorta venga sempre potenziata, e a nostro avviso due agenti per fronteggiare o comunque per cercare di tenere a bada questo personaggio sono insufficienti, perché sono detenuti ad alta sicurezza, detenuti particolarmente pericolosi, che non avendo nulla da perdere, qualsiasi occasione per loro è buona per cercare di evadere. Cioè due agenti armati non sono sufficienti a tenere sotto controllo un uomo non armato, per quanto aggressivo, per quanto furbo? No, non è problema dei due non sono sufficienti. Il problema è che lo scatto improvviso del soggetto che ha preso in pratica, ha messo in difficoltà la gente, perché mai e poi mai la gente si poteva pensare che un soggetto Capece, però mi perdoni se la interrompo, però è chiaro che scortando un criminale come quello che ci ha descritto prima la collega, è chiaro che uno deve essere pronto a qualsiasi cosa, no? Se no non ci sarebbe neanche bisogno di portarlo in manette, che ci siano degli agenti. È chiaro che ci si può aspettare che questo abbia uno scatto o qualcosa, perché non è una persona comune, non sono io, non è lei, non è un altro cittadino. Guarda, diciamo. Per noi è ordinaria amministrazione tradurre in ospedale o al tribunale soggetti particolarmente pericolosi. Non c'è un soggetto più pericoloso dell'altro, se non quelli che sono classificati ad alta sicurezza. E questo soggetto era proprio classificato ad alta sicurezza. A mio avviso la scorta era sottodotata, perché se mettevano un'unità in più, probabilmente potevano far fronte e potevano avere più certezza e più garanzia. Senta, ma secondo lei sono sufficientemente preparati anche all'effetto sorpresa, secondo lei, gli agenti? Anche se probabilmente il collega si è fatto sorprendere, perché basta spostarsi e togliere le manette in una certa maniera anziché in un'altra, il rischio diventa concreto. Vengono fatti dei corsi ad hoc per queste persone che fanno il servizio scorta. Probabilmente questo agente che ha fatto il servizio scorta magari è stato preso dal servizio a turno e non era proprio abilitato a fare il servizio scorta. Così sembrerebbe. Infatti adesso sentivamo anche, no, che ci sarà una inchiesta su questo per capire se ci sono state delle negligenze o degli agenti presenti o di chi anche li ha formati, li ha preparati. Io intanto la ringrazio Donato Capece e le auguro buon lavoro. Prego, si immagini. Grazie. Grazie anche a voi. Buona serata. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Molto velocemente vi riaggiorno sulle notizie con la Russia che sospende a sua volta tutti i voli per l'Egitto. Ci sono migliaia di turisti bloccati per questo e poi il Consiglio dei Ministri che vara il decreto salva regioni. Il boom di posti di lavoro negli Stati Uniti, la disoccupazione al 5% in America, meglio delle attese. Si rompe anche il bypass che è stato fatto a Messina per l'acqua, quindi è stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre Renzi dichiara si farà il ponte sullo stretto di Messina. E poi ergastolano, abbiamo appena parlato, che ruba una pistola una volta che è scortato in ospedale da due agenti e fugge, adesso è caccia all'uomo. Europa 24 notte. La Via Francigena è il più antico degli itinerari culturali europei, allo stesso tempo è quello più famoso. Su quella via si è rimessa in cammino l'Europa e nei prossimi mesi, con l'inizio del Giubileo, sarà ancora più viva. Ne parliamo con Luca Bruschi, coordinatore dei progetti europei della Via Francigena. La Via Francigena è il più antico degli itinerari culturali europei e allo stesso tempo quello più famoso. Su quella via si è rimessa in cammino l'Europa e nei prossimi mesi, con l'inizio del Giubileo, sarà ancora più viva. Ne parliamo con Luca Bruschi, coordinatore progetti europei Via Francigena. La Via Francigena è un itinerario culturale del Consiglio d'Europa e dentro la parola culturale ci sta la sua accezione religiosa, spirituale, turistica, legata alla sostenibilità e legata allo sviluppo dei territori. È un cammino che sta facendo mettere appunto in marcia, in cammino, migliaia di pellegrini della parte inglese, svizzera, francese e italiana, da Canterbury fino a Roma per 2500 chilometri. E questa invasione pacifica di camminatori, di pellegrini, sarà ancora più esplosiva nel senso positivo del termine il prossimo anno, perché con il Giubileo ci aspettiamo veramente migliaia di pellegrini che vorranno arrivare a Roma e lo faranno a piedi, in bicicletta, così come il Papa ha suggerito loro. È un itinerario che sta unendo i territori, che sta unendo i comuni, che sta mettendo in rete delle istituzioni, sta facendo lavorare le università, le associazioni, sta offrendo dei nuovi servizi a disposizione dei camminatori e dei pellegrini. Ed è un progetto che sta creando anche nuove opportunità di lavoro per i giovani, ripeto, sempre tornando sul tema dei servizi che si offrono ai camminatori. La Via Francigena quindi è un progetto in primis di dialogo interculturale, di tolleranza, di pace, di dialogo interreligioso. Ed è un progetto che ci sta facendo riappropriare una di quelle che sono le cose più importanti di questo tempo, cioè appunto il tempo per noi stessi, per l'incontro e per scoprire il territorio che ci sta incontro. E quindi è un progetto nella sua dimensione europea che sta unendo l'Italia e sta unendo l'Europa in direzione dal nord al Mediterraneo. Come dice Jacques Le Goff, è un ponte tra l'Europa anglosassone e l'Europa mediterranea. La Commissione europea dice che l'Europa deve proporre un'offerta turistica sostenibile e di qualità, puntando sui propri vantaggi comparativi, in particolare sulle diversità dei suoi paesaggi e sul suo straordinario patrimonio culturale. La creazione di itinerari culturali europei attraverso regioni o paesi diversi è stato un buon punto di partenza per promuovere la varietà e la complessità dell'offerta di turismo culturale in Europa. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzoni Trebi Meteo. Paolo, mi sembra che sia ormai esplosa l'estate. Davvero. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Sì, questa volta ti faccio felice. Sarà un weekend splendido in tutta Italia. Evviva. Guarda, si è piazzata quest'alta pressione sul nostro paese, peraltro resisterà per diversi giorni. Settimana prossima ancora il tempo rimarrà bello fino almeno al giorno 15, quindi insomma si apre un periodo prolungato. L'estate di San Martino veramente particolarmente lunga quest'anno, nel weekend addirittura punte di temperature che potrebbero raggiungere 22-23 gradi al sud, quindi davvero non sembrerà di essere a novembre. L'unico aspetto un po' autunnale che probabilmente in pianura padana qualche nebbiolina inizierà a formarsi di notte, ma veramente è l'unica cosa che ci ricorderà appunto che siamo in autunno. Senti, ma il bikini si può ritirare fuori, perché io non ho fatto ancora il cambio armadio, dici che è il caso? Davvero, ci sarebbe la possibilità. Aggiungo solo che in realtà tutto questo è un po' anomalo, e se ci ragioniamo un attimo, ogni volta ci ritroviamo a dire sempre di temperature al di sopra della media, non sono dei buoni segnali, però insomma intanto godiamoci questo weekend, ecco qua. Prendiamo il positivo e sicuramente effettivamente qualcosa di strambo c'è. Intanto grazie Paolo Corazzoni, buon tempo a te comunque sia. Ciao. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Ha avuto un buon tempo Giovanni Capuano, Valentino Rossi nelle prove libere? Discreto, però ha avuto un tempo migliore Lorenzo, ha avuto un tempo migliore Iannone, ha avuto un tempo migliore Pedrosa, ha avuto un tempo peggiore rispetto a quello di Valentino Rossi, Marc Márquez, questo nella prima giornata di prove, però oggi quasi tutti abbiamo trascorso la mattinata e il pomeriggio, perché le prove sono due, a cercare di scrutare negli occhi i grandi protagonisti della MotoGP, perché poi la verità è che Rossi farà una gara diversa rispetto a quella dei suoi grandi avversari, deve risalire dall'ultima posizione, deve sperare che Lorenzo non vinca, altrimenti diventa francamente quasi impossibile, ma se Lorenzo non vincesse e arrivasse terzo, ad esempio, potrebbe bastare il sesto posto, e allora il passo che ha fatto vedere oggi Rossi potrebbe anche essere sufficiente. Insomma, si cerca un po' di interpretare tutti i segnali, compresa un pizzico di tensione di Lorenzo, che pure è stato il più veloce, o quel sorriso che in tanti non hanno visto sulle labbra di Valentino Rossi, che ha detto che ha parlato un po' nel suo dialetto, ha detto che gli tira un po' ancora quella parte lì, no? per quello che è successo, e perché ieri il suo ricorso al TAS è stato respinto e dunque partirà dall'ultima fila. Tra l'altro sentivo prima il meteo, a Valencia farà caldo e questa non è una bella notizia per Valentino Rossi, perché questa non è una pista che ama. No, non tanto, c'era anche la speranza, essendo metà novembre, che magari ci fosse una corsa bagnata, e la corsa bagnata avrebbe aiutato Valentino Rossi con le sue poche speranze, perché Lorenzo ad esempio soffre molto l'acqua e ama molto il caldo, e invece si correrà col caldo. Insomma, ci sono tutti ingredienti, sono 72 ore che passeremo veramente a spaccare il capello, ad analizzare qualunque gesto, qualunque smorfia, qualunque curva e qualunque derapata dei protagonisti del Gran Premio di domenica. Grazie Giovanni Capuano, staremo a vedere. Grazie a te. Che vinca il migliore. Ciao Giovanni. E prima di lasciarci, qualche vostro altro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, lo vorrei leggere a proposito del ponte sullo Stretto di Messina. Tiziano, un bel ponte lo costruirei tra il cervello del premier e qualche neurone, così lo scrive anche Clotilde, stranamente lo stesso messaggio. Gianfranco, Renzi ha detto quella frase perché si crede Berlusconi. Ilaria scrive, buonasera cara Roberta, prima le emergenze, allora il ponte si farà tra una ventina d'anni, una volta risolte appunto le emergenze. Francesco, no, questo era sul detenuto. E poi gli altri messaggi, Giuseppe, il ponte sullo Stretto economicamente sarà un buco nero, il preventivo troppo basso, il resto dovrà essere pagato dallo Stato. Penso che a questo punto ci potremmo lasciare, sapete che ci riaggiorniamo poi alle 22, ricordatevi che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte dove potete continuare a fare tranquillamente i vostri commenti. Ci sentiamo tra poco.